quel candido prete l'abbia devono consegnato amore, perché credi o mio cuore che l'avorio lucente di quel candido dente abbia devono consegnato amore, con l'aurea punta del suo strale pungente, scultore punta del suo strale pungente, scolpi quei segni tra le perle gli ostri, tra le perle gli ostri.